Siamo con Alessio Di Addezio e Alessandra Fioretti di Legambiente per parlare del progetto Canzone Circolare. Ben trovati, benvenuti. Grazie. Grazie. Ci presentate quest'idea? Sì. Allora, l'idea è nata in collaborazione con Agli e le Storie Tese, un gruppo famoso, insomma, della scena italiana, e nasce proprio per parlare di economia circolare, quindi il modello alternativo all'economia lineare, e per fare in modo che questo tipo di, diciamo, che questi temi un po' complessi possano diventare un po' più di dominio pubblico attraverso uno strumento più insomma, comune a tutti, che è la musica, quindi uno strumento che possa veicolare questo progetto, insomma, l'economia circolare. Quindi nasce con Agli e le Storie Tese perché ormai al termine della loro carriera hanno deciso di scrivere quest'ultima canzone e di regalarla, tra virgolette, a Legambiente. La canzone si chiama appunto Canzone Circolare e è stata presentata il 25 giugno a Milano. Sì. È stata lanciata, e l'invito di Agli e le Storie Tese è stato quello di invitare appunto i musicisti a continuare la canzone, quindi musicisti più o meno noti, professionisti e non, a continuare aggiungendo, facendo una propria interpretazione della canzone circolare, che sia anche solo una strofa e ritornello, quindi non vincolante rispetto alla versione precedente, ma che sia semplicemente un modo per parlare di circolarità in modo diciamo libero. Ok. In sintesi possiamo spiegare per sommi capi cos'è l'economia circolare? Diciamo, l'economia circolare è quella forma di economia che si rigenera da sola, quindi la possiamo sintetizzare così, ed è l'economia che guarda anche oltre a modelli economici nuovi, quindi è quella che guarda con un occhio particolare al riuso, per esempio, al riciclo, a tutto ciò che riguarda la condivisione, l'utilizzo di forme alternative per produrre energia. Quindi sostanzialmente è ciò di cui Legambiente parla da sempre, e adesso lo sta facendo con maggiore forza proprio grazie a questo strumento, che quindi è uno strumento molto pop, quello della canzone circolare, attraverso la quale stiamo cercando appunto di far sì che anche la musica possa rigenerarsi in qualche modo da quello che la precedeva. Quindi in questo caso stiamo invitando gruppi più o meno noti, artisti più o meno noti, a sposare questo progetto e appunto parlare di rigenerazione e di riuso, riciclo. Diciamo che sicuramente il tema dei rifiuti è quello che sta andando più forte, perché rende appunto pop una materia che non è così immediata, però grazie anche a questo tipo di progetto siamo certi che riusciremo a entrare un po' più nelle case degli italiani, che poi è quello che fa Legambiente di norma, attraverso appunto un progetto molto differente rispetto a quelli che Legambiente mette in campo di solito. E grazie alla canzone circolare stiamo cercando di raccontare appunto l'economia, l'alternativa all'economia lineare. Io in Legambiente mi occupo di economia civile, quindi dell'economia che genera valore sui territori, anche questo per sommi capi. Quindi c'è un movimento all'interno della Legambiente che si sta occupando di questa materia, e diciamo è un movimento anche politico, quindi attraverso progetti come questo si sta cercando di raccontare effettivamente quali sono i modelli virtuosi e quali sono gli stili di vita da intraprendere per far sì che si riesca a far fronte alle gravi e grandi problematiche che ci affliggono quotidianamente. Quindi. Da qui in poi quali saranno i passaggi? Dunque, il progetto in sé, abbiamo detto, consiste nell'invitare i musicisti. Ci stanno arrivando le canzoni, che vengono caricate sul nostro sito canzonecircolare.legambiente.it, e da qui noi le carichiamo sulle nostre pagine Facebook e Instagram, e gli artisti, 5 artisti che riceveranno più apprezzamenti sui nostri social, avranno l'opportunità di esibirsi ad un evento finale che si svolgerà in autunno di Legambiente, in cui potranno esibirsi con la canzone circolare e con un brano del proprio repertorio personale. Quindi il progetto si conclude definitivamente il 30 settembre, è la scadenza per i gruppi, mentre la serata ci sarà verso i primi di novembre, insomma, orientativamente. E quindi abbiamo deciso di dare, di offrire questo spunto in più per aumentare anche il coinvolgimento, perché ovviamente l'elemento della competizione porta a diffondere più velocemente il progetto. Quindi per adesso ci stiamo muovendo così e stiamo ricevendo sempre più video. Okay. La particolarità è che a seguire la canzone di Elio Restaretese sono stati il direttore generale e il presidente di Legambiente, che si sono cimentati, visto che sono dei musicisti anche loro, ma lo tengono ben nascosto, e si sono cimentati nella seconda canzone circolare, quindi da quella di Elio Restaretese è scaturita poi la loro versione. In chiusura ripetiamo i riferimenti web per saperne di più. Esatto, allora il sito canzonecircolare.legambiente.it, e poi magari ti manderò anche il link più di preciso, e su Facebook e Instagram Canzone Circolare. Perfetto. Così. Allora, grazie Alessio e grazie Alessandra, in bocca al lupo. Grazie mille.